Radio 24 Reportage. Il film poneva una sfida molto grossa, che era quella appunto di un cast principalmente di bambini di 10 anni, minori. Bisogna considerare appunto che abbiamo ricostruito in realtà l'intero ambiente del collegio, quindi il gruppetto degli amici intimi di Mirko, la classe e poi l'intero collegio. La sfida era poi anche aumentata dal fatto che tutti questi bambini dovevano essere, o quantomeno nel film, dovevano essere non vedenti. Io fin dall'inizio volevo inserire nel cast una fortissima presenza di bambini ciechi veri, perché mi sembrava giusto anche proprio eticamente dare a questi bambini, che molto spesso sono dei talenti straordinari, nonostante il loro handicap, dargli una possibilità unica di recitare in un film. E quindi ci siamo messi alla ricerca in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia, nelle varie sedi regionali delle organizzazioni per ciechi, di bambini che potessero sostenere questa parte. Devo dire, originariamente da parte di molti dei miei collaboratori c'è stato un po' di timore, come a dire, ma riusciremo a far recitare dei bambini non vedenti? Forse è impossibile, un'assurdità. Invece è stata un'esperienza straordinaria, perché appunto molti di questi bambini sono dimostrati dei talenti straordinari, sia per spontaneità, per naturalezza, anche per ricchezza emotiva. È stato così che abbiamo trovato alcuni dei protagonisti assoluti del film, cioè Felice, l'amico migliore di Mirko, che è un bambino torinese che si chiama Simone Gullì, che addirittura dall'età di 3 anni, come il protagonista del film, veramente va in giro con un piccolo registratore e con cui registra tutti i suoni che gli capita di incontrare, inventa dei rumori con degli oggetti, a tal punto che poi nella realizzazione del film è diventato un collaboratore del nostro rumorista nella ricerca appunto degli oggetti che i bambini usano per creare questi suoni. Così Cristiano Bordoni, regista di Rosso come il cielo, racconta l'avventura che lo ha portato ad entrare in un mondo nuovo, quello dei non vedenti, un mondo che spalanca gli occhi a tutti, in un film meraviglioso che racconta la storia di Mirko Mencacci, un bambino rimasto cieco a causa di un incidente e che diventerà uno dei più rinomati montatori del suono per il cinema italiano. Storie di sogni e di tenacia che alimentano anche le giornate ordinarie di chi non vede in un mondo che ancora ha molti pregiudizi. Il mondo dei non vedenti, nonostante tutto, resta ancora infatti un tabù e per molti versi resta ancora un mondo che in molti guardano come si guarda all'oscurità. Ma non è così. Chi non vede, lavora, studia, si innamora, fa tutto. E in questo tutto è compreso anche lo sport, praticato a livello agonistico nel tempo libero. Ma quello che stiamo cercando di raccontarvi è un mondo dove quasi tutto è possibile. Lo ha scoperto anche Pietro Piller-Cotter, campione olimpico e vincitore dell'ultima Coppa del Mondo Grandi Distanze di sci di fondo, che ha portato il gruppo verbanese sciatori ciechi sulle piste di Macugnaga ai piedi del Monte Rosa. Sentite cosa ha raccontato di questa esperienza al nostro Dario Ricci. È stata una cosa incredibile stare con loro, che sono sicuramente delle persone eccezionali e ricche di umanità. All'inizio ho chiesto addirittura loro che mi aiutassero, perché ero timoroso, il primo io, che nel non voler commettere degli errori. Poi mi hanno messo talmente a mio agio che è diventato una cosa come se l'avessi fatto da sempre. Ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse, chi preferisce farsi guidare con un metronomo, che praticamente è un segnale acustico, e ovviamente la mia voce, oppure altri solo senza questo segnale, principalmente con il mio contatto. Chi preferisce fare il passo di pattinaggio, chi quello in alternato, veramente sono stati eccezionali ed è stata un'esperienza incredibile, tanto più che alla fine con una guida ho voluto provare io stesso, con una benda sugli occhi, a fare 400-500 metri per capire ancora di più quella che è il loro quotidiano nella vita di tutti i giorni e soprattutto sugli sci, e apprezzare ancora una volta di più le loro fatiche. E quindi devo fare veramente loro i miei più grandi complimenti, perché sono eccezionali. Ecco, dicevi che hai provato in prima persona con gli occhi bendati questa sensazione. Che effetto ti ha fatto? Come riesci a sentire la neve e a dialogare con la neve? Ma molto mi ha aiutato il fatto che prima di questo avessi fatto io la guida a loro,

Storie minime, piccoli passi, in una giornata che ha fatto nascere un'amicizia e mosso qualcosa che ha a che fare con la voglia di capire che l'altro, il diverso, è davvero una risorsa. Andare oltre significa dunque sforzarsi di vedere e di capire. Quello che fanno all'Unione Italiana Ciechi è proprio questo, guardare oltre e cominciare a mettersi al passo coi tempi. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo. In molti, non vedenti, da circa una ventina d'anni usano il computer, usano il telefono cellulare e le nuove tecnologie, strumenti utili che spesso, nelle nuove generazioni, stanno portando alla scomparsa dell'uso del Braille e dello studio dell'alfabeto Braille. Ovviamente si tratta di una perdita importante. Ancora Franco Lisi. I portatili sono molto diffusi chiaramente per tutti. Anche per noi, nel momento in cui si possono utilizzare con la tecnologia assistiva, sintesi vocale, barre Braille, diventano ovviamente molto più appetibili. Poi questo è un display Braille collegato col cavo in USB. Beneficiano delle caratteristiche dei sistemi operativi per palmari, per cui nel momento in cui lo accendi è già in memoria, è già caricato. Ha un'immediatezza di uso molto più semplice. Per i non vedenti, il modo più semplice e diretto di leggere un libro è dunque acquistare un computer dotato di sintesi vocale, display Braille e uno scanner, quindi recarsi in libreria e acquistare l'ultimo bestseller oppure un libro raro. Esistono anche le cosiddette macchine di lettura, dispositivi costituiti da uno scanner e da una sintesi vocale integrati, utili per quelli che non vogliono acquistare e apprendere l'uso di un computer. In alternativa, è possibile ricorrere ai centri di trascrizione e registrazione. In Italia esistono tanti di questi centri che trascrivono libri in Braille o li registrano su cassette. Un lavoro che si appoggia spesso al volontariato e che in anni ha permesso a migliaia di non vedenti di leggere testi classici della letteratura italiana e di altre letterature e molti manuali. La strada non è sempre facile. Per la lettura dei quotidiani, ad esempio, il Centro regionale per l'autonomia del non vedente offre un servizio che consente di ricevere ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alcune riviste direttamente nella propria casella di posta elettronica. Ma in generale, i siti dei più importanti quotidiani italiani sono molto complessi e difficili da navigare per un non vedente. Soltanto il quotidiano La Stampa di Torino ha realizzato una versione accessibile per la consultazione del giornale in edicola. Cose da dire e cose da fare nel mondo di chi non vede ce ne sono tantissime. Storie da raccontare e che danno la forza ad altri di andare avanti e portare avanti il proprio sogno. E poi c'è tutto il resto. Fare la spesa, lavare casa, sistemare, vestirsi, comprarsi i vestiti. Tutto a occhi chiusi e tutto da soli, tutto in una grande città come Milano. Detto così sembra spaventoso, ma non è così. Ce l'ha insegnato Franco Lisi. Un uomo di 40 anni che da quando aveva 4 anni, a causa di un glaucoma, ha perso la vista. Nella sua vita una donna ha contato molto, è la madre, che ha avuto il coraggio di lasciare andare il figlio, lasciarlo andare in giro per il mondo. Per un giorno intero sono stata nella vita di un altro e così, grazie alla sua pazienza, un non vedente, dirigente dell'Istituto Nazionale dei Ciechi di Milano, Franco Lisi, mi ha portato a bere un caffè ad occhi chiusi, fare la spesa dovendomi fidare del negoziante, evitare il supermercato perché sarebbe troppo difficile e faticoso, prendere la metropolitana, usare l'olfatto e l'udito per capire che giornata sarà, scendere le scale cantando, attraversare la strada stando attenti ai rumori, fare lo slalom tra gli infiniti ostacoli che si incontrano per strada e sui marciapiedi. Tutto questo con gli occhi chiusi per scoprire che esiste una città diversa, una città per chi non vede o vede più in profondità, forse, comunque, un altro mondo. Felicità.